programmino di Gigi D'Agostino. Chiudi gli occhi e attenta al gradino. Il programmino di Gigi D'Agostino. Chiudi gli occhi e attento al gradino. Tempo. Molto a tempo. inciampare. Non inciampare. D'Agostino. Questo è il mio programmino.

so che radio è, non so chi sono io. Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. programmino è finito, leccatevi il dito.